Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy D-Mike. See, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. Read a book, read a book, read a motherfucking book. R-E-A-D-A-B-O-O-K. R-E-A-D-A-B-O-O-K. R-E-A-D-A-B-O-O-K. R-E-A-D-A-B-O-O-K. Direi che è il modo più bello per viaggiare. E buon pomeriggio a tutte e tutti e benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata di Poi UIT Lettere Contrarie. Ormai lo sapete, la trasmissione dedicata alla letteratura che facciamo qui su Radio Wombat. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Poi UIT è quel programma dedicato alla letteratura e più precisamente a quella letteratura portatrice di una cultura libera, solidale e critica della società capitalista in cui viviamo. Romanzi, saggi, riviste e oggi poesie accomunate dalla convinzione che la cultura abbia un valore incommensurabile e debba essere sempre condivisa e accessibile a tutti. Continuiamo in questa nostra avventura poetica, iniziata già la settimana scorsa in compagnia dei poeti e le poetesse degli affluenti e anche in compagnia ormai consueta e felice di Edoardo Olmi. Edoardo, ci sei? Ci senti? Proviamo subito un po' il suono, come va? Ciao, ciao Mario, ciao Radio Wombat, ben ritrovati a tutti quanti. Eccoci, allora infatti ben ritrovati perché vogliamo andare avanti con una trasmissione iniziata già domenica scorsa, il cui podcast si può trovare sul sito della radio cliccando appunto sulla sezione podcast, ed è questa doppia puntata dedicata alla nuova antologia della poesia fiorentina curata da Affluenti, giusto Edo? Esatto, e dopo la già bellissima puntata di domenica scorsa dove avevamo cinque autrici, se non sbaglio, cinque poete o poetesse appunto della seconda antologia di Affluenti, Nuova Poesia Fiorentina, e quest'oggi, anche questa domenica, proponiamo altri quattro autori e della nuova antologia, altra puntata in gran parte al femminile anche quest'oggi con molti poeti, più Enrico Cavalloni, che è uno appunto dei nostri nuovi poeti che sarà nella seconda antologia. E oltre a questa autrice e questo autore in diretta, ascolteremo anche alcune letture da parte di Laura Remaschi di tre delle autrici transnazionali della seconda antologia di Affluenti, Brenda Forster, Barbara Pumosel e Miki Zappingio, le quali tra l'altro fanno parte appunto anche della Compagnia delle Poete, progetto poetico al femminile di cui parlavamo e accennavamo già domenica scorsa. E infatti già domenica scorsa avevamo anche parlato appunto della dicitura poetesse, poete, tutto questo si può riascoltare appunto sul sito della radio, ma oggi vogliamo andare abbastanza veloci perché di voci ne abbiamo davvero tante e il tempo stringe. E allora soltanto una battuta, Edo, prima poi di passare la voce, ma lo diciamo dopo, è quella che mi accennavi a telefono, che in settimana, cioè, vi è arrivata anche la prova d'impaginato del libro di prossima pubblicazione nella collana di Affluenti, giusto? Esatto, esattamente, in realtà è arrivata già un paio di settimane fa e ci stiamo lavorando con Marco Interdona, che è l'altro curatore dell'antologia, che anche di questa seconda, di cui, che sarà curatore anche di questa seconda antologia. Stiamo lavorando sulla bozza di stampa anche con i ragazzi, con gli autori, e quindi a giorni, insomma, speriamo di concludere l'editing, la correzione di bozze e di avere questa seconda antologia appunto pronta, se possibile già in estate, e soprattutto di averla pronta per settembre, quando e speriamo di poterla presentare al Festival di Letteratura Sociale in Polveriera. E infatti speriamo anche noi, questa trasmissione ricordiamo anche che nasce proprio a maggio per dare seguito a quello che era l'appuntamento annuale del Festival della Letteratura Sociale che si svolgeva in Polveriera appunto ogni maggio da 5 anni. Quest'anno per ovvie ragioni è stato non annullato ma intanto trasferito sulle frequenze di Radio Wombat e anche rimandato nella sua forma fisica probabilmente appunto a settembre, dove sicuramente se ci sarà modo di farlo troverà spazio anche questa antologia. Allora, ricordo soltanto agli ascoltatori come possono entrare in contatto con noi, sono anche oggi in tantissimi all'ascolto, ci potete scrivere all'indirizzo mail postawombat@insiberia.net oppure sul pad diretta a Wombat, il cui link è nella prima pagina del sito wombat.noblogs.org, oppure scrivendo l'indirizzo rafanu.vado.li. Ma adesso, prima di tornare alle autrici e agli autori di oggi, alle letture di questi nuovi versi, ascoltiamo invece i consigli di lettura, al di là delle poesie, perché spaziano insomma nei generi, che ci sono stati lasciati domenica scorsa dalle 5 poete o poetesse che erano ospiti con noi. È un audio da 20 minuti in cui ciascuna ci consiglia 3 libri, lo ascoltiamo subito e invitiamo anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a mandarci i loro consigli di lettura. Si può fare tramite la messaggeria del Wombat, il cui link sta sempre nella home del sito della radio. Intanto ascoltiamo quelli che sono i consigli della scorsa, se delle autrici ospiti alla puntata della scorsa settimana. Oggi mi intorto alla grande e poi ritorniamo subito con la diretta di oggi. State connessi su Radio Wombat. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. Sono Barbara Sosakowski ed ecco i miei 3 consigli di lettura. Avevo forse 15 anni, il mio professore di francese, il professore di lingua, mi dice: ma tu sei scrittrice di racconti brevi. Io tutta contenta perché effettivamente mi sentivo così, e mi dice: non guadagnerai mai soldi con racconti brevi, devi scrivere romanzi. Cosa strana, quando ho scelto i miei 3 libri, sono tutti libri di racconti brevi, non l'ho fatta apposta, ma è successo così. Il primo è un libro di Alice Munro, che ha vinto anche il premio Nobel nel 2013, si chiama Dear Life e, se non sbaglio, in italiano si chiama Uscirne Vivi. È un libro macroscopico, si tiene talmente vicino a tutto quello che può succedere all'interno dell'umano, della persona. È un libro sconvolgente per me, tutti dovrebbero leggerlo, sono dei racconti potenti, non si ci allontana mai dalla persona stessa. Il secondo libro è Milan Kundera, Amore e Odio per me, si chiama Amori Ridicoli, sempre racconti brevi. Un cinismo sentimentale incredibile. Con lui, a parte un grandissimo scrittore, ho imparato cos'era il cinismo sentimentale. Storie che fanno male da leggere, e però scritti da una penna così agile come la sua, ne vale veramente la pena. Il terzo libro, L'elefante scomparso e altri racconti di Haruki Murakami. In quel tempo, diciamo, di quel libro, Haruki Murakami lo vedevo, diciamo, analizzavo un po' dove comincia una storia, dove finisce. Quello che mi era piaciuto particolarmente di questo libro è che tutti i racconti erano molto diversi, non avevano, come spesso succede con raccolte di racconti, con una tematica, o comunque erano molto simili l'uno all'altro, erano racconti molto diversi l'uno dall'altro, qualcuno un po' scontato, qualcuno totalmente surreale, qualcuno erano spaccati di vita, 18 portate, come le ho chiamate io, 18 piccole racconti come 18 portate di cibi che vengono da abbinati con ingredienti inconsueti. Ed ecco per me i tre consigli di lettura. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Margherita Lo Consolo, faccio parte del gruppo poetico degli affluenti. Questi sono i miei consigli di lettura. Allora, inizio con Cecità del premio Nobel José Saramago, perché vedo molte similitudini con quello che stiamo vivendo in questo momento. Anche questo libro parla di un'epidemia, comincia da il primo cieco, appunto diventare cieco, poi via via questa epidemia si espande in questa città e i malati vengono confinati in un ex manicomio dove, essendo tutti insieme, avrebbero la possibilità di ricreare uno status sociale diverso e più solidale. Invece cosa fanno? Secondo una visione pessimistica, circa la capacità dell'essere umano, appunto, di creare un ambiente solidale, in pratica ripropongono, gli stessi giochi, di potere e quindi mi viene in mente Hobbes, una maglietta che mi regalò Hassan, Homo homini lupus. Però ecco, c'è un gruppetto guidato dalla moglie, di un medico, del medico che si finge cieca pur vedendo per stare insieme al marito. Ecco, questo gruppo insieme, e questa è la chiave di volta, riesce a recuperare un'aggregazione sociale più dignitosa, che poi appunto, è quello che dicono sia Noam Chomsky che José Pepe Mujica, che hanno detto nelle interviste appunto, relative al Covid, che l'unica possibilità dell'umanità, dell'essere umano di salvarsi è quella di costituire un'aggregazione sociale in termini più umani, basata sulla solidarietà piuttosto che sul profitto. E quindi alla fine io vedo un lato positivo in questo libro, dove si crea appunto una sorta di oasi possibile e che permette a questi individui di procedere insieme verso una radice sociale più umana, che è appunto la chiave di volta per dare un contributo al cambiamento, ognuno nel suo piccolo, da solo, ma insieme per un obiettivo umano comune, dove appunto l'obiettivo comune del benessere e bisogna capire che combacia con l'obiettivo del benessere personale. Questo è il primo. Il secondo libro è Il mio nome è Rosso, è il romanzo dello scrittore, anche lui premio Nobel turco, Orhan Pamuk, è ambientato tra i miniaturisti del 500, presso il laboratorio del sultano ottomano Murad, che aveva commissionato un manoscritto celebrativo, dentro doveva esserci un suo ritratto con le tecniche occidentali, e questo era appunto un pomo della discordia, perché c'è un confronto tra la tradizione ottomana e invece l'occidente cristiano, cioè chi si vuole un pochino emancipare, ecco, dalla sola tradizione. La cosa che mi ha colpito di questo libro è che ogni capitolo ha un punto di vista diverso e viene appunto parlato in prima persona da un personaggio diverso. Quindi è vissuto in prima persona via via da un diverso personaggio che si stratifica a sua volta con il punto di vista degli altri e non che questi punti di vista non coincidono. E quindi poi una trama poliziesca che va a ricercare qual è insomma, il vero punto di vista, ma non ce n'è uno che prevale sugli altri. Il terzo libro che consiglio è La morte della pizza, di Friedrich Dürrenmatt, che parla appunto di una sacerdotessa dell'oracolo di Delfi, dove e quindi c'è una metafora di un'umanità che vaga appunto nella nebbia e ci vedo anche un parallelismo con Cecità di Saramago, che preferisce non addossarsi la responsabilità del proprio destino, ma chiederlo alla Pizia, appunto questa sacerdotessa che si fa beffa, comincia a vaticinare così a caso, se non che i suoi oracoli, e in modo particolare quello che fa a Edipo o Edipo, dipende dalla radice che scegliamo, insomma, per la pronuncia, che assassinerà il padre, giacerà con la madre, e si avvera. È molto ironico, divertente e anche piccolo, insomma, si legge molto gradevolmente. Ecco, questi sono i miei consigli di lettura. Ciao a tutti, sono Chiara Rantini e sono una poetessa di affluenti. Allora, i miei consigli di lettura sono tre e sono un libro di poesia, un romanzo e un libro che è un saggio. La caratteristica di questi tre libri è che sono tutte e tre comunque pervasi dalla poesia. Io in genere scelgo sempre libri dove, anche se sono saggi, dove c'è comunque un linguaggio, l'uso di un linguaggio poetico. Allora, il primo libro, beh, è un classico che penso chiunque ami la poesia debba in un qualche modo leggere, e sono I Canti Orfici di Dino Campana. Perché ho scelto Dino Campana? Perché è comunque un poeta fuori dagli schemi, un poeta che non è stato neanche riconosciuto ai suoi tempi, insomma, è stato in qualche modo emarginato, è un po' l'emblema, no? del poeta. E comunque c'è una bellissima definizione di lui, e secondo me anche una definizione della sua poesia, che ha scritto Sibilla Leramo in una delle sue lettere. E ve la leggo. È questa: staccato da tutti, libero come nessuno e più umano. E quindi c'è questa dimensione della libertà fortissima, dell'essere comunque non isolato nel senso cattivo del termine, ma nel senso di essere una voce non dipendente da altre voci, e soprattutto di essere più umano. Poi sappiamo bene qual è stato il suo epilogo. Però la validità della sua poesia, secondo me, va oltre qualsiasi storia personale. Allora, l'altro libro invece che vi consiglio è un libro, anche questo è un classico, della letteratura russa. Io amo molto la letteratura russa e avrei potuto consigliarvi Dostoevsky, ma ho pensato a questo autore che magari è meno conosciuto. L'autore è Ivan Goncharov. E il libro è un bel romanzo che si intitola Oblomov. Perché ho scelto Oblomov? Perché Oblomov comunque è la storia praticamente di... è un romanzo di formazione mancato. Cioè Oblomov non è un eroe, anzi un antieroe per certi versi, però si mette a confronto, anche in modo certe volte un po' ironico e certe volte invece tragico, due mondi che erano i due mondi che si stavano affacciando nel mondo russo del tempo, ma che comunque sono ancora in un certo senso presenti tuttora, cioè un mondo efficiente, un mondo impeccabile, esatto come la scienza, che è rappresentato nel romanzo dal vero eroe, no? Diciamo così, che è Stolz, che è un... Praticamente è un ricco possidente di origine tedesca, e il mondo invece sognatore, forse un po' caotico, infantile, ma sicuramente più vero, più sincero e ricco di amore, insomma, che è rappresentato invece da Oblomov. E in questo scontrarsi di mondi nasce questo romanzo che è veramente... favoloso anche per la lingua, per il linguaggio. Io non conosco il russo, però sicuramente nella traduzione che ci sono risalta molto. E poi l'ultimo libro che vi consiglio è un libro, un saggio, però anche questo, come dicevo prima, un saggio che usa molto il linguaggio poetico, tanto che lo scrittore è anche un poeta in un certo senso. Praga Magica di Angelo Maria Ripellino. Praga Magica è un libro che ho conosciuto diversi anni fa, e che mi ha fatto nascere una voglia incredibile di andare a Praga, che per fortuna ho potuto esaudire. E, è un libro strano, cioè un libro sicuramente dove si incontrano, si incontra poesia, si incontra letteratura, si incontra storia, in una formula che è molto avvincente, mai noiosa, e quindi vi trascina in tutti i meandri, appunto, nella magia di Praga, in questa ambiguità che la caratterizza, e in questo modo entrate e conoscete questa città magnifica. Vi ringrazio tutti, a presto. Io sono Silvia Danotto, poeta, come volete, di Affluenti, che tra l'altro è un gruppo che amo tantissimo e che sento molto dinamico e sempre molto open, molto aperto, molto inclusivo. E proprio con questa inclusività, con questo senso di aprirsi alle lingue, alle diverse culture, ai diversi colori della pelle, alle diverse esperienze culturali, io voglio consigliare uno scrittore della Martinica, Edouard Glissant, di cui tra l'altro Ensemble ha appena pubblicato Le Indie, che è una bellissima raccolta poetica proprio sull'origine delle Indie dell'America. E quindi, essendo una traduzione in italiano, vi consiglierei di partire da quel testo. Io stessa sto traducendo invece Sale Nero, che è un altro bellissimo testo poetico di Glissant, è molto difficile, tra l'altro non è assolutamente facile, perché c'è dentro proprio tutta la sua il suo essere e il suo difendere una lingua francofona che non è il francese, quindi partendo da esperienze oltre fuori dal perimetro francese, quindi con tutto il discorso della schiavitù, del appartenere a una terra diversa, con fiumi diversi, con come si dice, con impulsi e sensazioni e modi di approcciare la vita molto diversi, ma comunque sempre vicini alla natura, all'essere umano, alla diversità. Ecco, credo che uno scrittore come Edouard Glissant sia fondamentale per affrontare questa nuova fase di vita che ci brutalmente ci butta davanti i grossi problemi che dobbiamo affrontare, cioè l'inclusione e dei migranti. Non possiamo più accettare che muoiano in mare, come gli schiavi che morivano non solo in mare ma nel fondo delle navi, torturati, lasciamo perdere. Ecco, dobbiamo in tutti i modi permettere che queste persone abbiano diritto alla vita, e con questo anche cercare di salvare il nostro pianeta. Il secondo libro invece, che comunque autore, io mi sono più concentrata sugli gli autori, è una donna, si chiama Hilda Doolittle, e il suo nome viene più spesso citato con le sue iniziali, HD. Mi sono laureata scrivendo una tesi sulla sua poesia. È un testo meraviglioso che ha scritto tanti, due soprattutto, ma uno che è stato tradotto in italiano da Marina Camboni, che si chiama Trilogy, e che parla, diciamo, è diviso tutto in tre parti. La prima parla appunto delle sue esperienze, di aver scelto di stare a Londra durante i bombardamenti, quindi quello che vede, la morte, la desolazione, e poi invece la seconda parte, nella seconda parte invece abbiamo qualcosa che si risveglia nonostante tutto questa morte e questa violenza e questa follia della guerra. E nella terza parte abbiamo una sua visione molto mistica, molto personale, molto donna, anche attraverso immagini bibliche, comunque viene a fare questa bellissima figura di questa dama bianca, che è, se vogliamo, un po' un cercare risposte diverse alla violenza delle armi e alla storia scritta dagli uomini. E per me il CD è stata molto importante nella mia ricerca poetica. E è una poetessa che, diciamo, questo testo è stato paragonato ai Four Quarters di T.S. Eliot, ai Pisan Cantos di Ezra Pound, però purtroppo non è ancora letto abbastanza. E quindi adesso arrivo al terzo libro che consiglio, e si chiama Mito. L'autore è Sergio Talenti, è un poeta toscano, nonché padre dei miei figli, e col quale ho avuto anche esperienze di poesia danza, io ho ballato sulle sue poesie. Mito è, tra l'altro, sta per Milano, Torino. Lui si immagina questa grossa fetta di territorio, in una grande metropoli, dove l'umano è contaminato dalle macchine, e quindi, ecco, lui indaga cosa c'è rimasto di umano in un mondo contaminato appunto dagli umanoidi, dalle macchine. E di lui ho apprezzato tantissimo, ed è stato per me una guida per quel che riguarda la ricerca linguistica. Ora lui non ha questa mia cosa delle lingue, però ha fatto una ricerca linguistica molto molto interessante, che io amo molto, e molto vera, che non si ferma, diciamo, a un primo significato o significante, che va oltre tutto questo. Grazie, io avrei finito. Ciao, sono Cecilia Ferretti, faccio parte del gruppo Poetico Affluenti, e queste sono i miei tre consigli di lettura. Parto con il libro La timidezza delle chiome di Pietro Maroè, un giovane ingegnere, tree climber, che ha scritto questo libro dedicandolo appunto al suo lavoro di posatura degli alberi e del suo grande amore per gli alberi. È stata una lettura sorprendente che mi è stata consigliata da un'amica e compagna di viaggio, e con questo libro appunto ho potuto approfondire il mio amore per gli alberi, e che ho da sempre, e questa unione che c'è tra uomo e ambiente. E cito solo una frase che mi riproietta anche in questi tempi in cui avremmo sempre più bisogno di riconsiderare il senso di comunità, e che mi ha abbastanza colpito quando l'ho letta. Ricordiamoci che la pianta è più simile a una colonia organizzata di cellule che non a un unico organismo centralizzato, dove ogni elemento è convinto di essere un albero. La mia seconda proposta o consiglio è invece Il Buddha nello specchio, di Woody Ostwender, Greg Martin e Ted Morino. Consiglio questo libro praticando il buddismo di Nichiren Daishonin, e perché appunto è una lettura che può essere aperta a tutti, anche solo ai curiosi che vogliono approfondire l'argomento e capire meglio di che cosa si tratta il buddismo e di che cosa si tratta la pratica in sé. E leggo velocemente un estratto dalla prefazione, che è stata scritta dal musicista jazz Herbie Hancock. Il Buddha nello specchio rende facilmente accessibile a tutti il profondo pensiero di Nichiren, che leggiate questo libro per semplice curiosità o perché sentite il bisogno di migliorare la vostra vita e le vostre circostanze, vi invito comunque a mettere alla prova seriamente i consigli pratici che offre. E infine, il terzo consiglio è un po' più classico, diciamo così, anche se credo abbastanza sconosciuto. Io ho una tendenza a imbattermi in piccole perle di grandi autori, e questa è una piccola perla che voglio consigliarvi. E si tratta di Favola di Wolfgang Goethe, e un piccolo libro, un libricino appunto, in cui Goethe scrive appunto una favola. È un testo enigmatico, molto enigmatico e molto strano, dove ci si discosta profondamente dagli schemi di buoni e cattivi che spesso si trovano nelle favole, e dove emerge proprio la profonda connessione fra tutti i personaggi, ma soprattutto che ogni personaggio ha veramente, come ogni persona, come ognuno di noi, è bianco e nero, in cui vige in ognuno di noi appunto male e bene, alla stessa maniera. Siamo noi a decidere, no? Che cosa vogliamo esprimere nel mondo e che cosa vogliamo essere attraverso la nostra persona. E anche in questo caso leggo velocemente una piccola citazione. Splendido e sicuro è il regno dei nostri padri, ma tu hai dimenticato la quarta forza, che è ancora più antica, più universale, più incontestabile, domina il mondo, la forza dell'amore. L'amore non domina, ma forma, e questo è più. E con questo ho concluso i miei consigli. Grazie a tutti. E ritorniamo in diretta. Questi che avete sentito erano i tre libri a testa consigliati dalle cinque autrici che erano ospiti della trasmissione di domenica scorsa, sempre dedicata alla poesia, sempre per la nuova antologia di Affluenti di prossima pubblicazione. La puntata, ricordo, la si può riascoltare sul sito della radio nella sezione podcast. Ma veniamo invece a parlare con le ospiti e gli ospiti di oggi, che non sono in effetti soltanto poeti in senso stretto, anzi la prima persona che andiamo a presentare, direi di presentarne una per volta e sentire quindi una voce per volta, la prima persona che andiamo a presentare è Laura Remaschi. Laura Remaschi si è formata in tecniche di animazione teatrale, di psicodramma e di storytelling creativo. Conduce laboratori legati a tematiche sociali come discriminazione, riti di passaggio, gestione dei conflitti. L'ultimo è stato realizzato sul tema Partire o Restare allo Spons Festival. Dal 2013 fa parte del gruppo teatrale La Ciurma, che realizza spettacoli comici e per bambini. L'ultimo lavoro con loro è stato Frankenstein Junior. Quest'anno ha debuttato per la prima volta in un ruolo drammatico, la signora Higgins in Smith & Wesson di Baricco, con la compagnia del Teatro dell'Inutile diretta da Daniele Torrini. Laura, ci senti? Benvenuta a questi microfoni. Sì, vi sento. Buonasera a tutti. Buonasera, Laura. Allora, Edoardo, noi abbiamo invitato in apertura Laura, ma la sentiremo anche più avanti nel corso di questa trasmissione, vero? Esatto, perché Laura Remaschi appunto è attrice, si occupa di teatro già da diversi anni e in questi anni ha seguito anche Affluenti, il progetto di Affluenti e molti degli eventi, delle iniziative che abbiamo fatto, dove ha curato anche alcune letture appunto degli autori e delle autrici del nostro percorso, appunto del nostro progetto poetico e del nostro progetto editoriale. E quindi abbiamo pensato di, diciamo così, di affidarle appunto alcune letture di tre autrici in particolare, tra cui una, Barbara Pumoser, che abbiamo già ascoltato in una delle trasmissioni precedenti, e le altre sono Brenda Porter e Miki Zappinchio, e sono tre delle autrici transnazionali che saranno nella seconda antologia di Affluenti, che fanno tutte e tre più o meno parte di questo progetto poetico al femminile che si chiama appunto Compagnia delle Poete, che riunisce poete o poetesse, che dir si voglia, appunto nate in altri paesi ma che vivono da molti anni in Italia e utilizzano ormai l'italiano come loro lingua principale di scrittura. E qual è, Barbara, la prima poesia che ci fai sentire? Quella di Barbara Pumoser? No, Brenda Posner, da Siti, vietato uso di cuscino. Bene. Esatto, iniziamo con Brenda Posner. Allora, a te il microfono, abbasso la base. Vai pure, Laura. Grazie. Vietato uso di cuscino. In questa piazza cittadina è tassativamente vietato stare comodamente seduto, A tal scopo abbiamo provveduto a rimuovere con articolato rigore ogni reperto di panchina provvista di schienale in quanto potrebbe dar adito ad una rilassata promiscuità d'uso. Inoltre, per ovviare all'eventuale abuso di spazio pubblico, abbiamo con pari rigore bandito ripari di ogni natura, tipo tela o tettoia o peggio ancora alberi di fuso alto, o anche meno nel caso aveste a pensare ivi di trovare un pur minimo angolo d'ombra. Siete pure avvisati di prendere nota come le suddette panchine, di pietra articolatamente, sono distribuite ai margini della piazza, onde evitare, ove possibile, eccessi del sociale, tipo conversazioni tra individui in numeri che superi uno. E questo era vietato uso di cuscino di Brenda Porster. Grazie intanto Laura per questa lettura, ti risentiremo più avanti per altre due. Io darei subito però, che dici, do parola a un'altra voce. Sì, Sì. molto, molto volentieri. Andiamo a ruota, due parole velocissime su Brenda, che è un'attrice appunto di Sì. origine americana che da molti anni vive qua in Italia, ha partecipato a Firenze, tra l'altro ha partecipato anche ad alcune iniziative di Appenti, in particolare alcune iniziative estive a Villa Strozzi. E niente, questo testo mi sembrava che fosse anche un po' emblematico, no? Con cui iniziare quando si dice che a volte la poesia può essere anche profetica, no? E mi sembra un testo abbastanza profetico anche della situazione in cui attualmente ci troviamo. Eh sì, direi proprio di sì, infatti mi sembra un ottimo inizio. E, andiamo avanti allora e ascoltiamo la voce se c'è con di Eleonora Falchi. Ci sei Eleonora, ci senti? Funziona tutto? Buonasera a tutti, sì, grazie, ci sono. Grazie a te Eleonora, ti sentiamo bene. Dunque, Eleonora Falchi è scrittrice per passione, membro del gruppo scrittori Firenze e di Internations, dove ha creato e gestisce un gruppo per book lover. Grande viaggiatrice e lettrice, ama confrontarsi con altre culture. Ha pubblicato racconti su diverse antologie, fiabe per bambini su raccolta in sostegno all'ospedale Mayer, una poesia sulla gioia di vivere del gruppo scrittori Firenze nel 2019. Ha partecipato alla stesura di testi teatrali, sempre per GSF, e a due edizioni dell'evento fiorentino L'eredità delle donne. Le sue pubblicazioni monografiche sono Una fiaba con ricette e musica assieme a Sergio Margonari, Note in pasticceria nel 2016, una silloge poetica, Pensavo fosse amore, invece era un narciso nel 2017, e una raccolta di racconti, mini etologia della fauna maschile e altre storie 2018. Fa parte della giuria del concorso letterario GSF. Eleonora, dunque, anche a te io chiederei subito di farci sentire i tuoi versi, prima poi di venire a parlare anche un po' direttamente con te, insomma. Senz'altro. Etiopia. Storie dipinte su volti scuri, sotto turbanti bianchi come i sorrisi che si incrociano per strade polverose. Terra da conoscere con piedi scalzi. Terra per costruire case, per crescere cibo. Monti, cornici di fiumi, di giovani in cammino verso le scuole, di campi arati dai buoi. E sfide quotidiane per la sopravvivenza. Canti notturni in un palco di stelle, rivolti a un Dio chiuso in chiese di pietre spesse, che veglia un mondo in cui l'uomo ancora non comanda. La seconda poesia invece, questa era Etiopia. Sì. La seconda poesia invece si chiama La ruota. Rincorre invano ritmi di marchingegni da chi ideati. Da creatore diventi servo, inadeguato o di onnipotenza illuso. Paraocchi tecnologici ti celano l'essenza della vita. Criceto giri senza avanzare. Svegliati e scendi dalla ruota dei più. È l'unica evoluzione che ti resta. Erano i versi di Eleonora Falchi, grazie intanto Eleonora. Edoardo, vogliamo chiedere qualcosa a Eleonora anche? Eleonora, fra l'altro, oltre ad essere nella seconda antologia di Affluenti, oltre ad essere appunto una delle autrici che saranno nella seconda antologia con, fra le altre, anche queste poesie, uscirà probabilmente fra novembre e dicembre prossimo anche con un libro, con un suo libro per la collana Affluenti che si intitolerà Vita che scorre, e il quale libro, fra l'altro, Eleonora è anche... collabora anche con Antonella Sarti, che è la traduttrice, la persona che ha tradotto per la collana di Affluenti il libro di Hone Tufari, primo poeta maori, o maori che dir si voglia, anche se maori in realtà è la pronuncia più corretta, il primo poeta maori pubblicato in Italia. E fra l'altro uscirà un'antologia, sempre a dicembre prossimo, uscirà un'antologia di poete o poetesse maori contemporanee, sempre a cura di Antonella Sarti. E Eleonora, appunto, che collabora anche con Antonella, uscirà in collana di Affluenti con Vita che scorre. Fra l'altro, piccola curiosità, mi ha detto in questi giorni che vorrebbe inserire come esergo al libro alcuni versi di Alessandro Scarpellini, che è un autore che abbiamo avuto il piacere di ascoltare un paio di settimane fa, o 3 settimane fa, proprio qua su Radio Wombat. Sì, ricordiamo anche che infatti i suoi queste trasmissioni si possono tutte riascoltare nella sezione podcast. Lo continuo a ricordare perché vedo che aumentano sempre gli ascoltatori, e quindi per chi si fosse connesso più avanti ricordo questo, ma anche come entrare in contatto con noi, cioè postawombat@insiberia.net oppure il pad sulla prima pagina del sito della radio. Dunque, vogliamo forse mettere un attimo un breve stacco musicale oppure andiamo avanti? Come facciamo? Edoardo, chiedo consiglio. Ma come vuoi, Mario, forse un paio di stacchi musicali nella puntata potrebbero starci bene, magari uno adesso e uno dopo, tra altri due autori e autrici, che ne pensi? Dai, aggiudicato, ne abbiamo una breve, mettiamo una canzoncina e poi ritorniamo subito in diretta con gli autori e le autrici di Affluenti. One, two, three. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. If you close the door, the night could last forever. Leave the wine glass out and drink a toast to never. Oh, someday I know someone will look into my eyes and say, hello, you're my very special one. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Dog potty bars, shiny Cadillac cars, and the people on subways and trains look green-gray in the rain as they stand disarrayed. Oh, but people look well in the dark. And if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. 'Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again. E siamo di nuovo in diretta su Poi You Eat, Lettere Contrarie, la trasmissione dedicata alla letteratura di Radio Wombat. Siamo con le autrici, gli autori di Affluenti, in occasione della prossima pubblicazione della nuova antologia della poesia fiorentina. E da Eleonora Falchi, che sicuramente vorremmo avere di nuovo ospite quando sarà pubblicato questo nuovo libro di cui abbiamo appena saputo in diretta, che bello. Passiamo ad Enrico Cavalloni. Intanto, Enrico, ciao, ci sei? Ci senti? Sì, un saluto a tutti, a Edoardo, Mario, a chiunque sia in ascolto. Ciao Enrico, un saluto anche a te. Dunque, Enrico Cavalloni nasce a Fiesole nel luglio del 1995 e cresce in campagna, sua alleata nella fanciullesca solitudine, con cui instaura un durevole dialogo divenuto poi riferimento nel suo processo di espressione poetica. A seguito del maestro Mirabella, a 7 anni incomincia la pratica del judo nello stile tradizionale educativo, che lo forma abile e libero nel suo percorso di individuo e insistentemente lo svuota di sguardi convenzionali. Oggi pratica judo anche in qualità di insegnante. Pratica anche la meditazione e, grazie al percorso di counseling legato alla mindfulness, orienta la sua esperienza nella direzione di un'apertura e un'investigazione della condizione umana. Beh, sono tutte cose che io, che ho avuto insomma l'occasione di leggere questi tuoi versi che ci leggerai in anteprima, mi sembra che ritornino anche nelle poesie che ci stai per far sentire, Enrico. Grazie, ti ringrazio per questa osservazione. Ce le vuoi leggere allora? Certo. Allora parto con Kangeiko, scoprire. Oltre le coperte si può assistere al concilio segreto delle stelle nel buio. E scivolando giù dal colle, agli ulivi, filosofi silenti nella penombra. E col freddo alle mani, giunti dove il sole sorge, offrire calore a mani fredde e in un sorriso tutto quel che serve dire. Ci vuoi leggere? Passo sì. Alla seconda. Hacker etico. Vengo a voi sotto innocue spoglie. Aprite una mail, mi trovate ovunque, non per derubarvi delle informazioni che fanno chi siete, non per distruggere quel che con fatica avete organizzato. Vengo a voi per notificarvi programmi nocivi scaricati senza il vostro consenso. Vengo a voi per ridarvi cestini sommersi dai selfie, per deframmentarvi e mostrarvi l'unità del software centrale. Potete smettere di giocare sempre a prato fiorito tra speranze e bombe. Ecco qui che esiste una rete wireless. Fate che vi pare nella connessione. Niente è da temere. Ed erano questi i versi di Enrico Cavalloni. Edoardo, anche questi erano versi inediti che saranno inclusi nella prossima antologia di affluenti? Esatto, esattamente. Come vedi Mario, come potete ascoltare, abbiamo voci molto variegate all'interno della seconda antologia, come già era in realtà anche nella prima. Tra l'altro ricordo che saranno 30 fra poeti e poete in questa seconda antologia di affluenti, quindi tante voci, tanti autori e tante autrici da scoprire. E è bello perché anche la seconda antologia di affluenti farà incontrare, oltre a diciamo voci poetiche che arrivano da ogni angolo del mondo, che si incontrano con le voci poetiche nate in qualche modo e cresciute a Firenze, ma farà incontrare anche tanti autori in qualche modo già conosciuti o che hanno un percorso già avviato alle spalle come poeti e come poete, e che si incontreranno appunto in questa antologia anche con tanti giovani, con tante nuove voci, e fra cui per esempio anche quella di Enrico Cavalloni, che è un giovane autore che abbiamo avuto il piacere di conoscere nei mesi scorsi all'interno di questo percorso che abbiamo fatto per la seconda antologia. Enrico ha partecipato a vari nostri eventi, a vari nostri reading, e appunto è un giovane autore che tra l'altro amalgama anche esperienze diverse tra di loro, no? Viene per esempio anche dal mondo della meditazione, del judo, è insegnante di judo. E come dicevi anche tu, Mario, sono vari elementi che poi si incontrano, che creano una sincronicità, no? Nei suoi testi, che hanno anche, oltre che delle tematiche, anche degli stili, mi sembra abbastanza variegati. Ora, lui giustamente leggeva, ma poi quando gli ascoltatori avranno modo di leggere anche le poesie sull'antologia, lo vedrete, no? Hanno anche la seconda che ha letto in particolare, Hacker Etico, oltre a una bella carica, diciamo, dissacrante, no? Nel testo. ha anche uno stile particolare, ecco, quindi è un giovane autore che consiglio anche lui di scoprire e di leggere. E noi ringraziamo quindi anche Enrico per queste letture e speriamo anche, come le altre autrici che abbiamo ospiti oggi, di poterlo incontrare fisicamente nella presentazione del libro cartaceo questo prossimo autunno. Nel frattempo, invece, adesso potremo invece tornare di nuovo da Laura Remaschi, forse per un'altra lettura. Laura, ci senti? Sì, ci sono. Cosa ci leggi, Laura? Con grande piacere. Allora, se Edoardo approva, leggo Ho perso la mia carta d'identità di Barbara Pumuse. Vediamo se approva. Vediamo. Approvi? Approvi. Edoardo approva e penso e spero che approverà anche Mario, perché abbiamo avuto il piacere di ascoltare Barbara Pumuse già in diretta qua su Radio Wombat, sempre tre settimane fa, se non sbaglio, insieme ad Alessandro Scarperini, quindi è un'attrice che già conosciamo e che appunto, oltre che nella collana di affluenti con un confine in comune, uscirà, sarà presente anche nella seconda antologia con alcune poesie, fra cui una di queste è quella che Laura adesso ci leggerà. Approva anche Mario, che è tutto ricchi. Spero che approvi anche Barbara, perché è veramente una grande responsabilità e un grande onore leggere le poesie di poeti e di altre persone, quindi spero di rendere onore alla poetica di Barbara. Ho perso la mia carta d'identità. So ancora chi sono, ma potrebbero anche non credermi. Non posso più andare a un estero diverso da quello in cui sono. Posso soltanto rimanere in questo recinto sicuro. Non posso attraversare il confine. Non posso, perché non sono né un orso, né uno scoiattolo o una volpe che invece potrebbe, ma rischia comunque sempre la pelle e la pelliccia. Le frontiere di una volta si sono spostate più in là con nuovi giri di filo spinato. Dentro, ora regole e pace non si producono più le mine antiuomo, soltanto i singoli pezzi nostrali e fatti in casa pronti per essere assemblati fuori. In missioni virtuali, milioni sul mercato affamato come soltanto i mostri creati dagli uomini sanno esserlo. La guerra è potere. Il potere si prepara con parole vuote, gridate, simulacri e cloni. È ora di agguerrirsi contro quanto la pubblicità si fissa sull'apparato digerente, quando le donne in TV sono più nude, più mute che mai, quando i politici alzano il volume tra brutte copie e déjà vu, e il mondo gira come deve, quando nelle fabbriche danni aumenta il lavoro, quando alle parole si cambia il volucro di volta in volta, ma all'interno si nascondono sempre le solite macerie riciclate. I soldati hanno sogni giovani e contratti da precari. Hanno da poco lasciato la scuola e a loro nessuno aveva parlato dell'uranio impoverito, del dopo. E questi erano i versi di Barbara Pumausel. Grazie Laura anche per queste letture. Sì, l'hai già ricordato tu, Edoardo, anche lei era stata ospite qui di questa trasmissione e sempre nella solita sezione podcast si può riascoltare lei e altri suoi versi. Io adesso passerei subito alla voce di Sara Moran. Sara, sei connessa? Ci senti? Sì, ciao Mario e ciao Edoardo, buon pomeriggio a tutti. Benvenuta quindi Sara, ti sentiamo bene. Allora, Sara Moran, lo pronuncio bene intanto il cognome Sara? Allora, è un po' a scelta, io dico secondo l'umore, perché in realtà è un cognome di origine irlandese, quindi o Moran o Moran, si pronuncerebbe in un altro modo, Moran sarebbe, ma un po' fuori contesto. Quindi lo pronunciamo male in ogni caso, allora il mio umore dice Moran per oggi, se non ti offendi lo tengo così. Vai, perfetto. Quindi Sara Moran nasce a Siena nel dicembre del 1987 e si è poi laureata in filologia moderna all'Università di Firenze. Ha pubblicato ricerche sulla poesia del Novecento e curato i carteggi inediti di Mario Luzzi ed altri esponenti dell'ermetismo fiorentino con la poetessa e traduttrice greca Margherita D'Amati. Nel 2018 è uscito il suo primo libro di narrativa, Unspoken Roots, un diario di viaggio in Nord America alla ricerca delle proprie origini. La sua produzione poetica, in bilico fra tedium vite, amori impossibili e intuizioni mistiche, è ancora in gran parte inedita. Dunque, intanto, tutto giusto, Sara? Sì, allora, Unspoken Roots, cioè sarebbe radici non dette, e poi la poetessa greca è Margherita Dalmati. Eccoci qua, grazie per la correzione, infatti, ho scritto tutto molto piccolo, non stavo leggendo bene. E ci fai sentire un paio di poesie anche tu, Sara? Bene. Se si potesse vedere la realtà smaterializzata, disarticolarsi, si vedrebbero geometrie, colori e suoni, combinarsi secondo una logica finita ma sempre multiforme, come un caleidoscopio sonoro tridimensionale. Queste le altre sfere di Pitagora o Dragon Ball, a incastro, come nei cubi di Rubik, l'algoritmo di Dio. Linguaggi e frequenze, numeri che si intrecciano, il debole che attira il debole e attraverso la risonanza con esso sana. Il rifiuto con il residuo da purificare dell'anima. Le forze di polizia, i messaggi, i segnali. Con i pixel le alte sfere viaggiano ancora più veloci. I congegni sono come lubrificati. E morte, catastrofe e gioia intersecano all'atere, nell'etere. Poi il secondo testo, più breve, intitola Generazione Y. Siamo come quella pianta troppo grande a cui non hanno cambiato il vaso e arriccia le radici nella sua terra. Ed erano le poesie di Sara Moran. Grazie a te, anche queste, come abbiamo sentito prima nella biografia, insomma, in gran parte inedite, alcune saranno presto edite nella nuova antologia di Affluenti. Che, Edoardo, mi stavi dicendo alcuni giorni fa che eravate tuttora incerti se aggiungere della nuova antologia, della nuova poesia fiorentina oppure no, ma beh, a me sembra che comunque per varie ragioni siano davvero intrinsecamente legate a questa città questi autori e questi versi che stiamo sentendo e che abbiamo sentito nelle scorse puntate. Beh sì, in effetti la domanda, diciamo, l'osservazione che fai è sempre importante in qualche modo, perché appunto ma sarà, mi sentite? Sì, sì, tieni premuto bene, scusa, ti perdevamo per un attimo. Ok, eccomi qua. E sì, che anche questa seconda antologia di Affluenti, come la prima, sarà Affluenti di nuova poesia fiorentina, e perché ovviamente le autrici e gli autori che ne fanno parte provengono, diciamo, affluiscono appunto a Firenze da ogni parte d'Italia, ogni parte del mondo. Ma in molti casi anche appunto agli autori del vivaio locale si incontrano, si mischiano molte autrici e molti autori che appunto hanno adottato, diciamo così, Firenze come loro città in cui vivono, in cui lavorano e in cui studiano, eccetera. E quindi chiaramente tutti gli autori e le autrici, per esempio anche nella seconda antologia, hanno vissuto, vivono comunque, hanno avuto o hanno delle connessioni organiche da un punto di vista esistenziale, poetico, con Firenze, e in particolare tutti i testi che saranno presenti, che saranno pubblicati anche in questa seconda antologia, sono stati scritti tutti rigorosamente a Firenze, diciamo, o dintorni, no? Comunque in connessione poetica con la città, che ovviamente poi ci sono anche testi di viaggio, no? Come per esempio il testo di Eleonora sull'Etiopia, no? Ma si tratta appunto di un'autrice che vive, che produce la sua poesia nel contesto fiorentino. Chiaramente Affluenti è un progetto che poi negli anni è andato anche ben oltre, no? I confini, diciamo così, di Firenze, in quanto da antologia poi è diventato anche una collana editoriale, e questa collana editoriale attualmente pubblica autori da tutte le regioni d'Italia e anche nel suo piccolo anche da alcune regioni del mondo, no? Basti pensare per esempio a Come tu fare, poeta Mauri, primo poeta Mauri tradotto in italiano, tradotto in Italia, scusa, pubblicato in Italia, perché era già stato tradotto, ma è il primo libro tradotto integralmente, pubblicato integralmente in Italia, o Penso ad esempio a Ewa Kruszel, altra poetessa di origine polacca emigrata negli Stati Uniti, che l'anno scorso ha pubblicato con noi, con Affluenti, la prima traduzione italiana di Contrabbando di Upe, ed ha fatto anche una breve tournée qua in Italia, passando tra l'altro anche dalla Polveriera e dal Festival di Letteratura Sociale. Quindi chiaramente con Marco Incartona, l'altro curatore, ben consapevoli che ormai il progetto di Affluenti va ben oltre i circuiti e i confini, diciamo così, di Firenze, però abbiamo sentito la necessità e anche il desiderio proprio della voglia di proseguire questo progetto poetico, anche di proseguire anche il progetto poetico incentrato su Firenze, basato su Firenze, con la pubblicazione di una seconda antologia che sarà sempre di testi prodotti a Firenze e dintorni o in connessione con Firenze. E chiaramente stiamo un po' riflettendo anche con l'editore e con Marco se ha ancora senso inserire la dicitura di nuova poesia fiorentina anche per l'antologia di Affluenti, ma perché il progetto appunto ovviamente è andato ben oltre la poesia fiorentina, diciamo così, però sicuramente anche questa seconda antologia sarà una pubblicazione ed un progetto poetico basato su il contesto fiorentino e su un lavoro poetico specifico che abbiamo fatto e che stiamo continuando insieme a Marco Incartona su quello che è il contesto di Firenze. Beh, se non si fosse capito, non vediamo davvero l'ora di averlo in mano. Intanto però vogliamo ascoltare ancora i versi di due autrici prima di essere sazi per oggi, ma prima di farlo io metterei un attimo un breve stacco musicale, ringraziando intanto te e Sara Moran per questa partecipazione, e poi torniamo ancora con poesie e autrici che saranno nella nuova raccolta di Affluenti. A fra pochissimo. Wombat. Thank you. E rieccoci qui in diretta su Poyu It, la canzone che stavate ascoltando prima che morisse il computer, ma ormai succede spesso, ma tanto quando rimonterò la puntata ci rimetterò per bene l'audio, era come le altre una scelta delle autrici ospite di oggi. Questa in particolare erano i Radiohead con Wired Fishes, che sono fra l'altro stati scelti da quella che è la prossima ospite di oggi, cioè Amira Di Costanzo. Ciao Amira, ci senti? Salve straniero. Aug, come mai Radiohead, Amira? Sono penso l'unica costante della mia vita, insieme agli spaghetti al pomodoro. Mi sembrano due ottime costanti. Allora Amira, ci leggi qualche poesia anche te? No, ti introduco prima, o vogliamo già che ho sbagliato fare all'incontrario e... Ma la mia biografia è talmente breve che tanto vale non leggerla. Allora, iniziamo dalla poesia e poi decido io se leggerla. Facciamo così. Allora, sempre riferimento culinario, la mia prima poesia si chiama L'ultimo biscotto. E fa più o meno così. Le lascio a voi le amnistie emotive del sabato sera, le lenzuola da lavare e le bollette da pagare. Io mi prendo, se posso, le persone sgualcite dal rimorso e quell'ultimo biscotto in fondo al pacco. Buono quello. Prendetevi pure i bei ristoranti, i contratti a tempo indeterminato e l'alienazione virtuale spalmata su schermo. Tenetemi da parte, però, l'ossitocina prepuberale, i calzini nuovi di pacca e le scatole regalo. Anche vuote. Anzi, meglio vuote. Così le riempio come piace a me, con le piccole cose, le cose rotte, stanche e dimenticate che mi rendono felice. Ed è finita. Ed è finita, era l'ultimo biscotto di Amira Di Costanzo. Abbiamo fatto bene però a fare parlare prima i versi, molto belli Amira, però io ci tengo e leggo queste due righe, due in effetti di biografia, e dico che sei nata a Fiesole nel 94, che attualmente studi scienze umanistiche della comunicazione, che la tua prima poesia l'hai scritta a 11 anni insieme a romanzi brevi e racconti finora mai pubblicati. Tutto vero? Sì, e devo dire che si denota molto facilmente l'influenza ermetica. Sì, anche nella biografia. E allora facci vedere se la troviamo anche nella seconda poesia, dai. La seconda poesia è Nel caso mi cercassi. E fa più o meno così. Mi sono messa il rossetto oggi, come un simbolo di rivolta alla mia depressione. Mi sono messa la gonna e le scarpe lucide, perché mi hanno detto che sentirti bella è spesso una distrazione. Mi sono comprata una borsetta lì là e l'ho lasciata appoggiata su una sedia nell'aldilà. Chissà che ci fa questo vuoto nel petto. Chissà come sta il sogno nel cassetto. Forse sta stretto. Forse è affamato. Ora che ci penso, è un po' che non gli do da mangiare. Lo lascio lì, lo lascio stare. Quello crea solo problemi, che mica siamo scemi a rincorrere sogni. Ma chi ce lo fa fare? E pensare che ieri mi sono sentita bene, anche se non c'eri. Mi sono truccata, ma volentieri ho preso i miei piedi e sono andata via. Mi sono messa il rossetto, ieri, come un simbolo di rivolto alla mia depressione. Ho preso del tempo e l'ho nascosto nella borsetta lì là che ancora mi aspetta nell'aldilà. Nel caso mi cercassi... Guardati intorno. Nel caso mi trovassi, ti prego, fammi un fischio, che mi cerco da tutto il giorno. Ed è finita anche questa. Ed è finita, prima o poi doveva succedere, era Nel caso mi cercassi di Amira Di Costanzo. Grazie Amira per questa lettura, proverò a essere ermetico anch'io nella domanda e quindi dirò Edo. Ermeticissimo, eccomi qua. E direi che appunto oltre a bravissime poete e poeti abbiamo anche delle bravissime lettrici, no? Perché anche questa lettura di Amira insomma aveva un bel pathos, no? Quindi è bello vedere appunto anche delle autrici così molto giovani che hanno già questo approccio bello, no? E forte, intenso alla poesia, ai versi, e anche Amira appunto è una giovanissima autrice i cui scritti sono ancora in gran parte inediti, che uscirà, credo forse sarà la prima pubblicazione che farà con la seconda antologia di affluenti, ed è appunto un'altra delle giovani voci interessanti, molto interessanti, che abbiamo incontrato e conosciuto in questo percorso e che affluirà appunto insieme a tanti altri autori e tante altre autrici anche, che hanno anche un percorso più articolato, ma mi sembra insomma anche la linea verde, ecco, di questa seconda antologia sia molto interessante. Quindi Amira, grazie intanto per questa partecipazione anche a te e anche per questa interpretazione, sì. Grazie a voi amici, a presto. E adesso io andrei subito con ancora un'altra lettura per far sì che tutto ci stia prima delle 17, quando seguirà la trasmissione La Fuga del Gatto, la trasmissione dedicata alla musica classica della Domenica Culturale di Radio Wombat. E torniamo da Laura. Laura, ci sei? Ritrovo. Laura, sì? Sì, Laura. Sì, sì, ci sono, scusate, è un po' lento il tutto. Che ci cosa... sono, ci sono, vi ascolto. Cosa ci leggerai adesso, Laura? Leggo Nella scatola i granchi ungono la sabbia di Michika Pinzno. Spero di aver letto bene il nome. Dopo lo chiediamo a Edoardo. Posso? Sì, certo. Sì, certo. Nulla, e sembra facile disfarsi neri chiodi, più neri degli ieri. Nulla, tranne l'amor, gesto del voluto in un futuro. L'unica vera bocca che cuce addobba e a niente che corrisponda. Per questo vivo senza futuro, per quel battito spento del mare, mare del cimitero dell'umanità. Lontane le tuniche dell'Africa. Prendo in prestito le parole, il foglio e i lunghi graffi del mattino. Nella scatola i granchi pungono la sabbia. Li raccolgo. Il mare porta certi calzini zuppi e li rotola sul bassifondo. Lontano ondeggia una palma a sinistra dell'orizzonte. Mentre custodisco con premura il tesoro del tempo di bonaccia, una certa pagina spiegazzata di un foglio spiegazzato, sottile e illeggibile, che raddrizzo e presso come fiori per l'erbario. Questa domenica sono sull'isola deserta vicino alla costa, abbastanza a lungo per perdermi nella pianura marina, cercando compagnia, per poco, per quanto poca è la solitudine di un viaggio che finisce. E grazie anche per quest'ultima lettura a Laura Remaschi. Edoardo, qualche parola su questa autrice che proviene da Sarajevo? Sì, esattamente. E intanto sulla pronuncia del nome, in realtà è stato, diciamo, un viaggio anche per me, no? Scoprire la pronuncia corretta, perché appunto Mikza Pizio, questa dovrebbe essere all'incirca la pronuncia corretta, è un'autrice di origine bosniaca nata a Sarajevo e che da tanti anni anche lei vive in Italia, è stata per molto tempo a Firenze e attualmente vive a Milano, vive e lavora a Milano, ma ha avuto una produzione insomma molto ampia e molto importante di poesia in questi anni nel contesto fiorentino. E Mikza, fra l'altro, oltre ad essere in uscita, oltre ad essere pubblicata nella seconda antologia di Affluenti, uscirà anche lei, come Barbara Pumosel, con un libro che si intitolerà Dalla terra alla terra, che uscirà anch'esso probabilmente da settembre-ottobre, e che sarà di fatto, se non sbaglio, la sua prima pubblicazione vera e propria, il primo libro, diciamo, autoriale che pubblicherà, nonostante che sia un'autrice appunto attiva già da molto tempo, già da molti anni sulla scena italiana, e sia sulla scena fiorentina che attualmente sulla scena milanese. E appunto questi testi che avete ascoltato dalla voce di Laura Remaschi, oltre che nella seconda antologia di Affluenti, si troveranno anche nel libro di Miki Zappingio in uscita per la collana editoriale di Affluenti, ovvero Dalla terra alla terra, che uscirà appunto il prossimo autunno tra settembre ed ottobre. E allora non c'è purtroppo tempo per mettere l'ultima canzone, allora metto una base nuova per i saluti. Sì, eccoci per salutare e rimandare all'ascolto della prossima puntata, in apertura della quale avremo ancora le voci di chi è stato ospite oggi a Poyu It Lettere Contrarie, perché proverò, non appena concluderemo questa diretta, a trattenere le autrici e gli autori per far registrare loro i consigli di lettura, la scelta dei libri che avete sentito anche in apertura di questa puntata di oggi e che vorremmo mandare in apertura anche della prossima. Nel frattempo invito anche tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici a mandarci i loro suggerimenti di lettura. Si possono mandare alla messaggeria del Wombat cliccando sul bottoncione rosso che compare premendo il link che si trova nella prima pagina del sito Wombat, oppure inviandoci gli audio a postawombat@insiberia.net, e come facciamo sempre li trasmetteremo in apertura delle prossime puntate. Ringraziamo intanto moltissimo tutte le molte voci di oggi, ovvero quella di Laura Remaschi, Eleonora Falchi, Enrico Cavalloni, Sara Moran e Amira Di Costanzo, nonché quella ormai consueta di Edoardo Olmi. Edoardo, proviamo a fare un saluto a tutti. Secondo te è troppo caos? No, dai, siamo in affluenti, ormai siamo abituati a 30 poeti e 30, a 30 fra poeti e poeti, quindi figurati se non riusciamo a fare un saluto collettivo in 5, 6, 7. Vai. E allora proviamoci in ordine, facciamo alfabetico, a partire da Eleonora e a scendere. Vi vogliamo ringraziare per questa vostra partecipazione, per averci letto in anteprima i vostri o altrui versi, e sicuramente avremo modo di nuovo di rivederci nel Festival di Letteratura fisico, se sarà fatto in autunno, ma anche a questi microfoni con le prossime pubblicazioni e i vostri prossimi lavori. Quindi Eleonora, grazie. Ciao Eleonora, se ci senti. Ciao Eleonora, se ci senti. Eccomi, non sentivo più nulla. Grazie a voi, felicissima di essere stata qui con voi e spero a presto. Grazie mille. Enrico, un saluto anche a te, grazie per questa partecipazione. Enrico Cavalloni. Grazie a voi tutti per le forti emozioni e per l'opportunità di condividere quello che sento importante. Un saluto. C'è un saluto anche ad Amira. Ciao Amira. Ciao stranieri. Ciao Laura, grazie per essere stata con noi oggi e per le tue letture. Laura, facci un saluto. Laura non c'è. E allora salutiamo Sara intanto. Ciao Sara, grazie per essere stata ospite. Ciao, grazie. Questi microfoni. Ciao. La puntata da stasera sarà disponibile in podcast, andrà in replica altre due volte in settimana. La bella è uscito dal canale e è successo. È disconnesso. Andrà in onda altre due volte in settimana, non ricordo quando, ma il è andata via. È andata via, effettivamente è andata via, ma lo streaming, il palinsesto, ora mi mancano le parole a quest'ora, lo si può trovare sulla prima pagina del sito Wombat. Intanto sono le 17 esatte, quindi lasciamo spazio ai microfoni di La Fuga del Gatto. Queste erano le voci di chi sarà incluso nella prossima poesia, nella prossima antologia di Affluenti. Edoardo, noi ci risentiamo ancora nelle prossime volte per ancora qualche altra puntata a luglio, sempre con te e con Affluenti. Beh sì, dai, molto, molto volentieri, ormai ci abbiamo preso la mano, ci abbiamo preso gusto, quindi speriamo di sentirci nuovamente già a luglio e soprattutto speriamo di vederci dal vivo con noi e con queste splendide autrici e con questi splendidi autori anche al Festival di Letteratura Sociale in Polverera, appena sarà possibile riaprire le porte, e chissà poi che da autunno non ci sia anche qualche sorpresa e qualche novità. Ci speriamo davvero a entrambe le cose. Sulle sorprese non anticipiamo niente, sul Festival della Letteratura Sociale invece vi daremo ben conto da questi microfoni, come sempre anche seguiremo per intero tutte le iniziative che vi si svolgeranno. Grazie di nuovo a tutti per la partecipazione, grazie a tutti per l'ascolto, largo alla Fuga del Gatto e poi Yoyit ritorna domenica prossima alle 15:30. Buon ascolto e buona domenica su Radio Wombat. Leggere è un modo per viaggiare. Yeah! What's up, y'all? This is your boy, Z-Mike.